America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da Bowie in New Hampshire. Mario Platero, sono al seguito dei candidati per le elezioni americane per capire con voi gli sviluppi di questi primi giorni chiave per il percorso verso la Casa Bianca del 2016. E oggi resterei sui repubblicani e vorrei partire da un documento originale, da una nostra esclusiva, da una presa diretta che ho fatto ieri mattina in una palestra a Bowie, appunto, al seguito di Marco Rubio. Sentiamo. Marco Rubio, New Hampshire, di nuovo on the road al seguito dei candidati, sta cercando di convincere queste persone a dargli il voto dopo la buona performance che ha fatto in Iowa. Siamo di nuovo in movimento, ormai tutti i candidati sono qui in New Hampshire ed è in questi giorni che si determinerà il posizionamento del voto. Il voto sarà il 9 di febbraio, ma ci sarà un town hall meeting questa sera con Hillary e con Sanders. Ed ecco qui Rubio che sta facendo il suo piccolo town hall meeting, piccolo perché siamo in una palestra, sembrano le palestre ad essere il luogo preferito per questo tipo di comizi, e qua sta dicendo: andrò alla Casa Bianca, eliminerò tutti gli ordini esecutivi che ha fatto il Presidente degli Stati Uniti. Sentite la reazione della foglia, tutti, dice, tutti gli ordini esecutivi. Ha raccontato un po' della sua vita, è un self-made man. Aveva un prestito per dover studiare, dice, l'ho dovuto pagare fino a 3 anni fa. Ecco, sentite, Rubio parla in modo abbastanza convincente, è un candidato tra virgolette serio, perché sta parlando delle tematiche, di quello che farà, non fa battute come fa Trump. Trump è uno showman, riesce a coinvolgere la folla si diverte, però alla fine non necessariamente si fida di Trump, perché quando si tratta di parlare del dettaglio, dei dossier, delle misure che si devono prendere, Trump non è all'altezza, almeno finora non lo è sembrato. Ecco, questa registrazione che vi ho fatto ascoltare risale alla mattinata di ieri a Bowie, appunto, un paesino minuscolo, antico, fondato nel 1727. Ci sono poche migliaia di abitanti che vivono per la maggioranza in casette rurali di legno, casette bianche e con tapparelle verdi, blu, sembra di essere nelle fiabe americane. E un centinaio di loro sono venuti in questa palestra ai margini del villaggio per dialogare appunto con Marco Rubio. Vi avevo detto già ieri, insomma, Rubio è un po' l'apparente favorito per la nomination repubblicana dopo il voto dell'Iowa. C'è da chiedersi naturalmente perché lo sia e perché lo sia diventato così rapidamente, dopo appena un terzo posto al caucus dell'Iowa e soprattutto nelle primissime battute di questa campagna elettorale. Ci sono molte risposte: è tenace, preparato, organizzato, ha forti appoggi finanziari. Ma devo dire, c'è una risposta che secondo me prevale su tutte: è figlio di immigrati poveri. È l'emblema stesso del sogno americano e, devo dire, di un sogno che si è perduto in questi anni post-crisi. Gli americani non sono felici, non sono contenti in tutto il paese, in tutti gli Stati Uniti, anche qui in New Hampshire, dove ci sono in realtà condizioni economiche migliori di altri stati. Qual è il segreto di Marco Rubio? Beh, sembra essere uno dei pochi che guarda in avanti senza fare attacchi negativi, cattivi, come per esempio fa Donald Trump. È forse l'unico che si distacca dal negativismo e riapre quello spiraglio dell'ottimismo che è un ingrediente essenziale per il successo americano, e lo fa partendo anche dalla sua storia. Dice che i democratici lo temono, temono la sua candidatura, la sua nomination più di qualunque altra, e anche per questo chiede il voto qui in New Hampshire. We need to convince more people that what we stand for is the right approach for them and for our country. And if we do that, we're going to win this election. I give us the best chance to win, and if you don't believe me, ask a Democrat. They do not want to run against me. Of all the Republicans in the race, they know that if I'm our nominee, they lose. And that's why I'm asking you to vote for me. Thank you. Ecco, Rubio, avete sentito, chiede il voto. La sua richiesta di voto è legata anche alla sua storia personale, come vi accennavo prima. Racconta che i suoi genitori sono arrivati in America nel 1956, sono arrivati a New York, non avevano un soldo. Dice: mio padre ha trovato lavoro in un bar, hanno scelto l'America, hanno scelto di mettere radici a Miami perché sapevano che l'America poteva dare un futuro a noi, ai loro figli. E dice, la mia storia è uguale a quella di molti altri figli di immigrati che hanno avuto dei genitori che gli hanno dato amore e sacrificio per farli studiare, e qui nella terra delle opportunità le hanno trovate in molti, io incluso. Ecco, in effetti nessuno dei candidati in corsa può rivendicare origini umili come quelle di Rubio. Il fatto che alla prima generazione sia stato non solo eletto senatore di uno degli stati più importanti, ma che ora stia correndo con credibilità per la presidenza degli Stati Uniti d'America. Vi dicevo poco sopra che schiude semplicemente questa successione di fatti la porta dell'ottimismo, e rispetto a Rubio, Donald Trump, che ho visto sempre qui in New Hampshire, aveva però un pubblico di migliaia di persone, è più prepotente che propositivo, si riempie la bocca di battute generalmente azzeccate, adora attaccare i concorrenti con perfidia, ha fatto persino il verso, pensate, a un giornalista del New York Times, un giornalista paraplegico, perché aveva scritto cose che non gradiva, e la gente corre ad ascoltarlo perché si diverte, ma alla resa dei conti Trump non è preparato nel dettaglio, non ha una padronanza degli argomenti come quella che ha Rubio, liquida le domande o le tematiche con una battuta, e in Iowa è stato penalizzato proprio perché, come mi ha detto un repubblicano al caucus di Des Moines, non è automatico che un comico possa essere adatto a guidare un paese, soprattutto l'America, e di questo ce ne siamo accorti. Ecco, sentiamo un audio che ho registrato l'altra sera al rally di Trump. New Hampshire, sono a Hampshire Hill, un enorme capannone dove ci saranno forse 2-3 mila persone, con Donald Trump. La campagna elettorale si è già trasferita dall'Iowa alla costa orientale, e il messaggio del candidato, che devo dire qui ha avuto un'accoglienza straordinaria, una gran quantità di gente, è molto semplice. Dice, ma qui mi stanno attaccando. Appena detto, dice, ma insomma, questo personaggio, Marco Rubio, che è un politico di professione, è arrivato terzo nella corsa dell'Iowa, eppure tutti i media dicono la grande rivelazione, il grande successo, la grande vittoria. Ma forse c'è qualcosa che non capisco, dice Trump. Io sono arrivato secondo, sentite l'applauso a una delle sue battute, devo dire, riesce sempre a fare queste battute e a raccogliere una grande reazione. Qui sta attaccando appunto la stampa, e che dà, secondo lui, un quadro assolutamente distorto di quella che è la situazione. Io sono arrivato secondo, non sono un politico di professione, il mio primo debutto, diciamo, è un successo, non sarebbe male, eppure sono il perdente. Beh, dice, io mi appello a voi, visto che si deve vincere, cerchiamo di vincere in New Hampshire, così riusciremo a tappargli la bocca. E vediamo la situazione generale. Trump, vi dicevo, riesce a coagulare una forte presa sull'opinione pubblica, secondo me più per divertimento che per altro, però resta in testa ai sondaggi in New Hampshire, al 36% delle preferenze, Cruz è all'11%, spuntano però John Kasich dell'Ohio, governatore dell'Ohio, con il 10,7%, Jeb Bush con il 9,8%, Bush qui deve fare dei risultati, deve davvero riuscire ad avere un 10%, un 11%, 12%, altrimenti, beh, qualcuno dice, dovrà forse uscire dalla corsa. Rubio ha il 10,7% e quindi al quarto posto, e la gente comincia a sfilarsi. Il senatore Paul, per esempio, ha già annunciato ieri il ritiro. A Bau, ieri mattina, quando ho incontrato Rubio, erano le 8, piovigginava, era la prima tappa della giornata, però poi la giornata è andata avanti fino a tarda notte, per poi ricominciare il giorno dopo, questa mattina, fino a martedì 9 febbraio, il giorno delle primarie di questa prima corsa elettorale. Con lui ieri, che gli hanno fatto domande, c'era un anziano signore, aveva una tutina verde, un berretto con sopra la data, pensate, 1959. Parlando con Rubio gli chiede un confronto tra le forze armate ai tempi di Eisenhower e quelle di oggi, e c'era una giovane madre, bionda, vestita con cura, con una bambina di un anno in braccio, gli chiede come pensava di contenere il terrorismo dell'ISIS, uno studente afroamericano preoccupato per il prestito contratto per pagare l'università. Rubio, tra l'altro, dice, io stesso ho dovuto pagarmi il prestito fino a 3 anni fa. C'è il dipendente di una piccola impresa che chiede novità, sconti fiscali per copartecipazione a rischio d'impresa, insomma una gran quantità di domande. Per tutti Rubio ha avuto risposte precise: le nostre forze aeree e navali sono nelle peggiori condizioni mai viste, dobbiamo investire, ha detto, per le aziende propone di ridurre le tasse, per l'ISIS vuole lanciare attacchi mirati, per l'immigrazione vuole controlli serrati ma non un muro. Insomma, è un candidato conservatore ma centrista, e in America in genere le elezioni si vincono al centro. Da Bau è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.